Sì, oggi è un giorno molto importante, si apre questa nuova politica pubblica, un piano per l'uguaglianza di genere della città metropolitana di Bologna, sottoscritto, condiviso, discusso con tutti i 55 comuni del territorio. Si tratta di un atto necessario perché ormai abbiamo visto in modo molto molto netto come le condizioni di disparità e disuguaglianza tra uomini e donne siano molto ampie in questo paese. Pensiamo al fatto che in nessuna parte al mondo sia stata davvero raggiunta la parità sostanziale tra uomini e donne, da nessuna parte. Pensiamo anche al fatto che, per esempio, l'Europa ci chiedeva di arrivare entro il 2010 all'indice di occupazione femminile del 60%, siamo nel paese con il 49% di occupazione femminile nel 2022. A Bologna abbiamo deciso di fare una scelta, un cambio di passo evidente, una politica pubblica sistemica. Il piano si compone di 5 aree: lavoro pagato, lavoro non pagato, azioni di contrasto alla violenza contro le donne, cultura dell'uguaglianza e contrasto alle discriminazioni multiple. E poi un percorso partecipato, un migliaio di persone incontrate, più di 100 incontri, perché per noi la questione dell'uguaglianza non può essere semplicemente scritta su un documento, ma è questione da discutere con i cittadini, con le cittadine, da misurare quotidianamente nella vita quotidiana, su cui alzare il livello di un intero territorio. Questo è il piano per l'uguaglianza, 8 mesi di lavoro e 4 anni e mezzo per portarlo a terra. Si legge anche di eventuali incentivi. Una delle difficoltà in questo momento è di fare figli e cercare di accudirli. C'è anche un progetto dedicato a quello, per esempio per il babysitting o per altri piani. La questione del lavoro pagato è la prima area del piano e ci sono alcune priorità sopra ogni altra. La prima: noi dobbiamo ridurre le dimensioni volontarie dal mondo del lavoro. Di volontario non hanno un bel niente. Quando una donna diventa mamma e non ha un reddito sufficiente da lavoro, non ha una rete familiare e non ha un posto in un asilo nido pubblico, di volontario nel dimettersi dal mondo del lavoro non c'è proprio niente. E il problema vero è che dopo alcuni anni in cui si sta a casa non si sa, in questo mondo che è così cambiato dal punto di vista del lavoro pagato, come si rientra. Quindi la prima azione del piano è quella di costruire incentivi, forse anche azioni di sostegno al reddito, proprio in quei momenti in cui lavoratori e prevalentemente lavoratrici sono più esposte all'uscita dal mondo del lavoro. La seconda questione che dobbiamo affrontare è quella di una condivisione del lavoro di cura. Immaginiamo sull'azione del comune di Bologna, si chiama Bimbi Boy, da un'integrazione ai redditi al papà che prendono il congedo di paternità, di sostenere con più forza la questione della condivisione, che è ancora profondamente iniqua anche sul territorio bolognese. E avere un lavoro di cura nei confronti della casa, dei bambini, degli anziani, a volte impedisce, comunque influenza moltissimo la capacità di stare sul mondo del lavoro pagato. E poi molte azioni rivolte alle imprese, tante in particolare alle imprese femminili, perché abbiamo molto bisogno anche di sostenere questo tipo di attività. A proposito di imprese, avete inserito anche il gender pay gap, che è insomma un tema importante, il divario tra retribuzione tra uomini e donne. I nodi delle disuguaglianze sul mondo del lavoro sono noti. Uno è che c'è disparità profonda tra il lavoro, lo stipendio degli uomini e lo stipendio delle donne in ogni contesto, sia nel lavoro dipendente e sia quello nelle imprenditrici. E quindi misure per ridurre il gender pay gap sono previste all'interno del piano.